buono forestale fruttifero ha appunto questa caratteristica interessante di avere sì rendimenti molto molto risicati, ma avere una predeterminazione di quello che può essere il capitale nel caso in cui io ritiri il capitale investito in un momento precedente alla scadenza, quindi non ho un mercato, cioè non prenderò il prezzo di mercato di allora, ma prendo un capitale comprensivo degli interessi predeterminato ed è indicato nel foglio informativo stesso del bono postale fruttifero, quindi come dire non sono soggetto alle oscillazioni di mercato, e questo perché ha un profilo estremamente conservativo è sicuramente l'elemento più interessante dei buoni postali fruttiferi. Quindi quando parliamo di strumenti più sicuri stiamo parlando di sicurezza dal punto di vista delle oscillazioni dei mercati finanziari. E infatti, perché mentre prima potevano avere da questo punto di vista lo stesso grado di sicurezza di BOT e PTP, abbiamo imparato dalla crisi recente che invece anche i titoli di Stato, che potevano essere considerati fino a qualche tempo fa la mamma di tutti i risparmiatori pedone, possono subire delle oscillazioni molto forti, e questo lo abbiamo visto appunto soprattutto nel mese di agosto, e di conseguenza ecco, quantomeno questa è la differenza più importante che possiamo indicare tra i titoli di Stato e i buoni fruttiferi.